Roberto, andiamo subito al cuore della questione. Con gli animali si può parlare? Certamente, è anche molto divertente. L'importante è conoscere la loro lingua. Ma con tutti proprio? Con tutti. Cioè, non c'è un animale che più... No, con tutti. Con tutti. La mina vagante di oggi è Roberto Marchesini, fondatore della Zoo Antropologia. Mine vaganti di Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia e benvenuti a Mine Vaganti. Siamo in diretta dagli studi di Radio 24. Un paio d'ore per accompagnarvi se siete in viaggio e per stare in vostra compagnia. Se invece siete a casa, lo sapete, in queste due ore cerchiamo di raccontarvi storie non conosciute, cerchiamo di raccontarvi un'altra Italia, cerchiamo di dare spazio a persone che non fanno rumore, ma ci sono, hanno cose da dire, non sono banali. Insomma, tante storie ci accompagneranno, anche le vostre, anche i vostri interventi in diretta via SMS al 349-238-6666 oppure attraverso Facebook. Ci trovate nelle pagine Mine Vaganti di Radio 24, che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Oggi parleremo di animali e per farlo iniziamo con lui, David Letterman. Actually talks? Yes. Oh my god. Do you have a microphone or something? A microphone on my shirt. Okay, all right, here we go. And what will Odie say? He says I love you. All right, Odie will say I love you. Here. Odie, I love you. I love you. Centinaia di migliaia di visualizzazioni in YouTube per questo video dove pare che un cane, insomma, dica I love you. E l'abbiamo usato un po' come metafora per introdurvi l'ospite di oggi. Do il benvenuto a Roberto Marchesini. Ciao Roberto. Ciao a tutti. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Allora Roberto, definire chi sei non è facile. Tu veterinario, ma non solo, ma soprattutto sei fondatore di una nuova disciplina che è la zoantropologia. E affronteremo l'argomento, ma ci riesci a spiegare proprio in una parentesi che cos'è? Beh, lo studio della relazione uomo-animale, capire come la relazione sia stata importante per l'uomo e come ancora svolga importante funzione proprio nel dare immaginario, aiuto alle persone, quindi come questa relazione sia fondativa, sia importante per l'essere umano. E quindi studiarla, capirla e nello stesso tempo applicarla. Abbiamo iniziato con questo cane ospite al David Letterman, ma basta digitare cane parlante o gatto parlante su YouTube e veramente ci sono migliaia di video. È un bisogno, è un desiderio di rendere umano l'animale? Cioè, cosa... Perché? Di cosa è significativa questa voglia, questa proprio questa ricerca di una relazione nuova, di instaurare un qualcosa che va, per esempio, al di là della relazione normale, che è un dialogo, cioè far parlare un animale credo che sia folle. Certo, innanzitutto dimostra il fatto che noi oggi abbiamo un forte bisogno di relazionarci con gli animali, cioè di ricostruire un rapporto che bene o male si è andato a interrompere o comunque a distruggere col passaggio da una cultura rurale a una cultura urbana. Quindi è chiaro che c'è questo forte bisogno, questo forte desiderio, siamo interessati agli animali, siamo affascinati come lo sono i bambini. In fondo appena un bambino vede un animale e non capisce più niente, non è un caso che gli interpreti delle fiabe, gli interpreti dei cartoni siano tutti animali, perché gli animali affascinano l'uomo, l'hanno sempre affascinato. Ecco, detto questo, è chiaro che c'è un passaggio importante, perché mentre un tempo l'animale in casa era una sorta di feticcio, oggi le persone vogliono vivere a 360 gradi la loro relazione, le persone vogliono andare addirittura a lavorare con gli animali, vogliono poter andare in vacanza, poter andare al parco, fare delle attività collaborative con il loro cane. Questo dimostra un cambiamento incredibile che c'è stato dagli anni 80 ad oggi. Già gli anni 80 c'era molto di più la tendenza a considerare l'animale una sorta di oggetto da tenere in casa, oggi invece c'è l'idea di un animale compagno di vita e quindi un cambiamento notevole. Dello stesso tempo c'è la mancanza di cultura, nel senso che era molto più facile per un bambino che veniva su in campagna rendersi conto del linguaggio diverso delle varie specie, perché aveva davanti a sé l'asino, la mucca, il maiale, le galline, quindi capiva che ogni animale aveva una sua, in qualche modo, un suo linguaggio, un suo modo per farsi capire. Oggi abbiamo invece una forte tendenza a umanizzare, quindi diciamo che da una parte c'è il bisogno, il desiderio, l'interesse, dall'altra mancano gli strumenti e la competenza per poterlo fare, e quindi si cade in queste forme anche molto buffe, ma di antropomorfizzazione, che col dialogo non hanno niente a che fare. Alla fine è rischioso, no? Cioè, nel senso che crede le false aspettative, insomma è comunque un rapporto sbagliato quello che si va a instaurare con l'animale. Quando parli di questo pensi solo al cane e al gatto, che sono per autonomasia, insomma, gli animali domestici per eccellenza, o quello che ci stai raccontando vale per qualsiasi animale? Beh, diciamo che è una cosa che nella cultura c'è sempre stata. Se pensiamo allo sciamanesimo, lo sciamano andava, faceva un viaggio iniziatico, andava nel mondo di un animale che era l'animale spirito guida, l'animale guida, e cercava in qualche modo di capirlo attraverso proprio un percorso iniziatico, un allontanamento dal mondo degli uomini e una immersione totale nel osservazione di questa specie. Se vogliamo, gli etologi di oggi sono i vecchi sciamani. Pensiamo alla Gudal, che passa tutta la vita in mezzo agli scimpanzé per cercare di capire il loro linguaggio, o la Fosse, che anche lei entra nel mondo dei gorilla e per parlare con loro li imita, cioè entra proprio una sorta di empatia nei loro confronti e quindi ripete esattamente i gesti per poter entrare in un dialogo con loro. Ecco, diciamo che gli etologi sono gli sciamani del nostro tempo, ed è un lavoro difficile, senza dubbio, un lavoro direi sacerdotale in un certo senso, perché in qualche modo devi andare oltre quello che sono le tue cornici antropocentriche, per cui tu tendi a proiettare sull'altro le tue caratteristiche, dire, che ne so, l'abbraccio per l'uomo vuol dire ti voglio bene, quindi deve voler dire la stessa cosa per tutti, quindi l'idea è quello che abbraccio dagli anelli fino agli elefanti e a tutti gli sto dando un messaggio di pace. L'abbraccio non è un universale, è il nostro modo di essere umani, di dire ti voglio bene. Se abbraccio un cane e lui mi morde, è perché gli ho detto io sono più forte di te con questo gesto. Mine vaganti. 349-238-6666 per i vostri messaggi in diretto, oppure le pagine di Mine Vaganti di Radio 24 su Facebook, se volete comunicare con noi in diretta e se volete fare domande o porre quesiti all'ospite di oggi. La Mina Vagante è Roberto Marchesini, fondatore della zoantropologia. Intanto, Roberto, cosa si prova a dire ho fondato una nuova disciplina? Perché insomma credo sia una bella soddisfazione. Sì, certamente. La cosa però che io penso è che in realtà è una disciplina che in un certo senso c'è sempre stata, cioè già Democrito diceva che noi abbiamo imparato tutto dagli animali, è veramente così. Abbiamo imparato la tecnica, abbiamo imparato la musica, in fondo gli armonici riprendono il canto dei fringillidi e le canzoni maore riprendono i canti dei cetacei. Abbiamo non solo la tecnologia, la danza, Masai riprende il rituale di corteggiamento della gru coronata. Quindi vedete, danza, moda, musica, tecnologia, gli animali sono stati i nostri grandi maestri. Quindi in fondo la zoantropologia non fa altro che studiare questa attività e cercare in qualche modo di capire come mai l'uomo è così interessato al comportamento degli animali e come mai tende in qualche modo a imitarli, in un certo senso trasformando il comportamento degli animali in qualche cosa di suo, che è appunto la dimensione culturale. Imitiamo anche le piante? Ma tendenzialmente noi imitiamo soprattutto gli animali, certo anche le piante, ma negli animali ci riconosciamo di più. In fondo gli animali sono diversi da noi, però sono anche simili, perché bene o male riconosciamo un corteggiamento, riconosciamo il desiderio di giocare, il desiderio di socializzare, il desiderio di esplorare, quindi riusciamo a vederci in loro. Quindi c'è questo ponte che ci porta, in fondo è quello che molti scrittori di fantascienza come Philip Dick dicevano, insomma gli animali mi ispirano gli alieni perché riesco a capirli. E allo stesso tempo un grande scrittore di fantascienza come Stanislaw Lem diceva che è impossibile conoscere ciò che è completamente diverso, Solaris, no? Invece l'animale non è completamente diverso, l'animale per in certi sensi è come noi, e quindi questo ci aiuta a costruire questo ponte e che poi ci traghetta verso dei territori, delle geografie di diversità che sono strabilianti e bellissime. In fondo, quando una persona umanizza un animale, non è semplicemente che rovina il rapporto, però si perde molto, perché la bellezza del rapporto con l'animale è proprio perché l'animale ha delle caratteristiche diverse da te. Lasciamo da parte per un attimo questo rapporto con gli animali e torniamo al rapporto con le piante, e lo facciamo con una guerriglia verde. Fate un passo avanti per la natura, se volete un altro passo per l'aria pura, rotolatevi nell'erba della pianura e fate tutti quanti un salto senza paura. paura, paura, paura. Un calcio all'avvelenamento planetario, facciamo un melichino e pesci al mercurio, un braccio in alto. Si chiama guerrilla gardening ed è un'azione di rinnovamento, un'azione sociale, un'azione di cambiamento civile che passa attraverso l'occupazione temporanea di spazi di cui nessuno si occupa all'interno delle città, e questi spazi curarli, in questi spazi piantare piante, fiori, alberi, insomma prendere possesso di queste piccole parentesi urbane e darle dignità. È un movimento attivo in tutta Italia, ci sono tantissime azioni quasi quotidiane nelle maggiori città italiane, ma oggi andiamo a Napoli perché ci sembrava particolarmente significativo partire da questa città dove, insomma, parlare di verde quando tutti parlano solamente di immondizia, era anche questo, era la nostra, il nostro desiderio per fare una piccola rivoluzione. Loro sono i Friarelli Ribelli, il collettivo del Guerrilla Gardening di Napoli. Con noi c'è una delle fondatrici, una delle attiviste, è giovanissima, 23 anni e si chiama Laura Gioia. Ciao Laura. Salve, ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Ecco, come possono essere definiti i Guerrilla Gardening? Allora, innanzitutto vi volevo ringraziare, appunto, come dicevi, per averci contattato, perché siamo felici di poter dare una voce, diciamo, alla parte positiva di Napoli, che spesso viene dimenticata e nascosta. E noi appunto siamo un gruppo di cittadini volenterosi che spontaneamente si occupa di pulire, di piantare, diciamo di qualificare le aiole, gli spazi verdi della nostra città, abbandonati a quelli che sono il degrado e all'incuria continua, per poterli restituire appunto alla comunità. Per cui appunto ci armiamo di zappe, vanghe e rastrelli e speriamo attacchi verdi, ripiantando alberi, piante e fiori. E appunto, come dicevi tu, questo tipo di attività si chiama guerrilla gardening, che in realtà di solito viene praticata di notte da appunto un numero limitato di persone nella maniera più rapida e più fugace possibile. E noi invece abbiamo deciso di farla alla luce del sole, proprio per riuscire a coinvolgere il maggior numero di persone possibile. E per cui appunto l'iniziativa viene... Sì, sì, siamo qua, stavo ascoltando. Tra l'altro stavo caricando nelle pagine nostre in Facebook, c'è un video proprio dove siete in azione, quindi insomma, ed è vero, è tutto alla luce del sole, con reazioni anche delle persone, perché credo che insomma magari all'inizio non capiscono questi giardinieri improvvisati cosa vogliono, cosa stiano facendo, e invece poi... Ma lo scopo è solo andare a piantare oppure poi adottate di fatto questi spazi, li curate anche nel quotidiano? Allora... diciamo che appunto noi abbiamo scelto le piante proprio perché una pianta per vivere ha bisogno di cure continue e costanti, per cui le nostre azioni, diciamo, richiedono quello che è l'impegno attivo delle persone del posto, che appunto devono in prima persona occuparsi dell'aiola per mantenerla bella e verde così come gliel'abbiamo lasciata. E proprio, diciamo, in questo piccolo gesto, per questo lo facciamo alla luce del sole, per riuscire a diciamo, a richiamare l'attenzione e a dare anche un messaggio a maggiore numero di persone possibili. E appunto diciamo, questo piccolo gesto di attenzione da parte delle persone che costantemente, quindi per assicurare la sopravvivenza del posto, devono darle acqua, devono curarle costantemente, ci sembra proprio essere un gesto che racchiude, diciamo, un senso di appartenenza e di amore verso, certo, il posto, no, in cui si vive. Ed è proprio quello che cerchiamo cioè proviamo a suscitare nelle persone, diciamo, un amore per la propria terra e diciamo per ciò che li circonda in generale. So che una volta trasportando un ulivo di 3 metri avete avuto un po' di problemi anche con la polizia, vero? No, veramente, appunto, trasportando questo ulivo abbiamo dovuto bloccare il traffico a un certo punto qui al quartiere di Cavalleggeri. E abbiamo sentito le sirene della polizia, ci siamo guardati tra di noi e abbiamo detto: vabbè, se non ci arrestano adesso non ci arrestano più. Però appunto la polizia è passata e tranquillamente ci ha guardato e poi è passata avanti, non ci ha fermato. La cosa diciamo, è ben accetta da parte di tutti. E vorrei vedere, certo. Allora, friariellribelli.wordpress.com è il sito per conoscere tutte le vostre attività. E, Laura, prima di salutarci, quale sarà la prossima azione? Ce la puoi anticipare? Avete qualcosa in programma? Sì, abbiamo in programma molto probabilmente questo fine settimana. Ci vorremmo spostare in periferia. Come puoi immaginare, in questo periodo è un po' difficile piantare a causa della siccità e del caldo, però abbiamo appunto adottato una aiola e delle persone, delle bellissime persone che se ne prenderanno cura, per cui è assicurata acqua per tutta l'estate, per perfetto. Cui dovremo spostarci in periferia. Grazie davvero a te e a tutto il gruppo dei Guerrilla Mind Tutta Italia, insomma è un'attività che ci piace, e, insomma l'appoggiamo in pieno. Ciao e buon lavoro, ciao Laura, ciao ciao, buona domenica. Ciao, spostiamoci di lato. Roberto, so che anche tu nel tuo centro hai piantato qualche albero, vero? Sì, sì, certo, un centinaio di alberi più arbusti, aiuole, percorsi di erbe aromatiche, perché insomma gli animali devono stare in mezzo al verde ed è molto importante questa estetica della natura, che non è un'estetica vuota, è un'estetica importante, perché per esempio nel bambino dà importanti germi per quanto riguarda il suo immaginario, e quindi io penso che lo sbaglio che molto spesso si fa è tenere gli animali nel degrado, in piccole gabbie, anche queste fattorie, molto spesso fattorie didattiche sono fatte dove ci sono gli animali in gabbia. Invece gli animali sono belli liberi, in spazi aperti, in spazi erbosi, sotto gli alberi, e questo dà subito un'immagine completamente diversa. Dobbiamo pensare ai giardini abitati, in fondo il verde non è un arredo urbano, il verde è vita, e quindi pensare anche agli ospiti, certo, di questo mondo, e quindi pensare in tutto integrato, non separare gli animali dal verde e avere questi giardini a volte molto falsi, così come non avere questi animali messi dentro delle gabbie, che è veramente una cosa orrenda, oltre che naturalmente da un punto di vista etico assolutamente da evitare. www.siua.it è il sito del tuo centro, di questa scuola di interazione uomo-animale, si trova in provincia di Bologna, a Galliera, se sì, non erro, come comune. Che cos'è? Uno spazio dove, a parte che so che c'è una tua biblioteca personale, perché sì, non c'è figurina sugli animali pubblicata sulla faccia della terra che tu non abbia, sei un collezionista. Sì, sì, sì, sì. Io ho sempre avuto questa passione per gli animali fin da quando ero piccolo, quindi tutto ciò che riguardava gli animali, dalle stampe alle figurine ai libri eccetera, ho 20.000 volumi sul rapporto con gli animali, e lì al mio centro vengono persone a fare le tesi. Sono a disposizione del pubblico. Sono a disposizione del pubblico, lì facciamo anche corsi per gli insegnanti o per i veterinari, per psicologi che si vogliono occupare di relazione uomo-animale, e in più all'esterno ci sono tutti i percorsi che permettono di avere anche delle idee su come si fa un giardino degli uccelli, un giardino delle farfalle, l'osservazione dei laboratori olfattivi con le piante aromatiche, le altre tipologie di piante, e giocare a fare il cane. Quindi, infatti prima mi raccontai questa cosa che è molto bella, perché i bambini si divertono e nello stesso tempo educano quei sensi che normalmente sono negletti, perché noi viviamo solamente di vista, cioè la televisione, bellissimo, è importante il computer, però la cosa che viene a mancare è un po' di educazione al tatto, educazione al gusto, educazione all'olfatto. Quindi quando il bambino gioca a interpretare il cane, è bendato e viene accompagnato da un altro bambino, e gli facciamo una mascherina con una specie di imbuto davanti in modo che permette di sentire gli odori, e lì si fa tutto il percorso olfattivo, impara a riconoscere le diverse piante anche dall'odore, e magari a pensare a degli ambienti riferiti a quell'odore e degli animali riferiti in quell'ambiente. Il gioco di ruolo, no? per capire cosa prova un altro, questa anche l'empatia, non nei confronti di un'altra persona, ma in questo caso nei confronti di un animale. Mine vaganti. Quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha, e nemmeno violenza. Vive addosso ai muri e non parla mai. Vive addosso ai muri e non parla Il secondo è un bastardo che conosce la fame e la tranquillità, ed il piede dell'uomo è la strada. Ogni volta che muore gli rinasce la coda. E abbiamo chiesto aiuto a De Gregori per rientrare in argomento qui con Roberto Marchesini, oggi ospite in studio a Mine Vaganti. E, Roberto, tu hai pubblicato anche una serie di libri molto pratici. E adesso per Sonda è appena uscito questo dizionario bilingue per bambini, e bambino gatto, gatto bambino, la stessa cosa cane bambino. Bambino cane, il galateo per il cane con De Vecchi, e poi c'è un testo che è un piccolo cult, che è veramente questo dizionario uomo italiano cane, cane italiano cane, cane italiano. E, insomma, è un'impresa, è una provocazione, o veramente è un dizionario, cioè si riesce a tradurre le mie parole in qualcosa che il cane può capire e viceversa? È proprio una... No. Cioè è un artificio, sicuramente è un gioco, ma la cosa importante è cercare di capire come certi gesti, certi comportamenti nell'uomo abbiano un significato, nel cane abbiano un altro significato, e quindi cercare di riuscire a creare un dialogo, come dico sempre, forse tra un uomo e un cane ci si capisce anche senza usare un dizionario, ma un po' come andare a Londra e cercare di fare un discorso estremamente articolato a gesti. Se noi conosciamo di più che cosa vuol dire, per esempio, quando un cane si lecca il naso, sbatte gli occhi, alza una zampa, e forse entriamo meglio nel suo mondo e riusciamo a capire quello che ci sta dicendo, perché molto spesso, per esempio, sento le persone che dicono: ma il mio cane, se l'abbraccio, è contento perché mi dà una linguata in faccia, mi dà i bacini. Dico: guarda che quel gesto non è un bacino, è il cane sta dicendo: basta, per favore, basta, ho capito che sei più forte, ma mi arrendo, sono un cucciolo. Ecco, giusto per fargli capire che molto spesso c'è una chiusura proprio interpretativa, la persona non riesce a capire quello che... Infatti, prima di fare questo dizionario io ho fatto una prova, ho cercato di con un questionario di capire come le persone conoscevano quelle che sono le parole chiave che può dire un cane, come le parole chiave di un uomo. Se una persona non capisse cosa vuol dire il sorriso, il pianto, allargare le braccia, eccetera, farebbe molta fatica a relazionarsi con un essere umano. E così ho visto che le persone le cose di base non le conoscevano, quindi era importante per me cercare di facilitare questo incontro, che l'etologia, insomma, bene o male ci aiuta a entrare più in profondità in questo tipo di rapporto. Ecco, ma è più complicato per un cane capire un uomo o per un uomo capire il cane? Ma direi che è complicato per entrambi. Il cane si aspetta dei gesti molto semplici e molto chiari. A volte lui li interpreta in maniera cinocentrica, come noi siamo antropocentrici. Quindi quando noi ci mettiamo davanti a un cane, il cane capisce che lo stiamo fronteggiando. Quindi invece noi tendenzialmente ci mettiamo davanti a qualcuno per incontrarlo. È difficile far entrare un cane in casa se ti metti davanti e gli dici: entra, dai. Il cane resta lì fermo e dice: cosa sta dicendo questo? Con la mano mi dice entra e col corpo mi sta dicendo resta lì. E così sono tantissime le situazioni. Noi tendiamo a guardare molto negli occhi, perché diciamo gli occhi non mentono, e quindi siccome siamo abituati a dire delle gran balle, tendenzialmente siamo portati a guardarci negli occhi. Per il cane guardarsi negli occhi, soprattutto se non ti conosco, è un gesto un po' troppo intimo, che mi può mettere a spaventare o irritare, un po' come se girando per la strada qualcuno mi mettesse un braccio sopra la spalla. Cioè, vabbè, lo accetto dalla fidanzata ma non l'accetto dal primo estraneo. Ecco, questo crea molto spesso delle incomprensioni, quindi aiutare sostanzialmente a incontrare soprattutto le persone, quelle persone che amano e desiderano. Che io dico spesso, la persona è un po' come nel usare la motocicletta e conoscere come è fatta una motocicletta. Molto spesso usano il cane ma non sanno cos'è un cane, e quindi questo è il grosso sbaglio, secondo me, perché per entrare in una relazione bisogna conoscere chi hai davanti e accettare la sua diversità e valorizzare questa sua diversità, perché altrimenti non entrerai mai in un rapporto profondo e autentico. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Temo, insomma, potrebbe partire una gara a tentare di interpretare i gesti del proprio animale, ma cosa che non vorrei fare. So che queste cose le fa anche con un maiale, ma poi ne parleremo fra pochissimo. E tu, Francesco, sei riuscito a parlare con le foche? Buona domenica, Federico. Buona domenica a tutti. Ciao. Le hai viste le foche, vero? Le foche le ho viste da vicino, sì. E anche io ci ho provato a parlarci. Però è stata, anche se diciamo, un'esperienza troppo breve, abbiamo instaurato già un piccolo rapporto. Allora, Francesco Stelli, per presentarti, intanto ascoltiamo un suono che ce l'abbiamo pronto. È significativo della vostra impresa. Noi qui a Mine Vaganti cerchiamo storie strane, storie curiose, storie piccole che però dietro invece nascondono qualcosa di grande. Siamo in collegamento con Francesco Furiassi, che fa parte di un gruppo di amici che hanno realizzato un'impresa nominata Apri gli occhi senza freni. Francesco, però la lascio presentare a te. Sì, innanzitutto grazie per questo spazio. E Apri gli occhi senza freni è una sorta di contenitore dove convergono soprattutto sport, sociale, tutto questo con la finalità di creare dei documentari che abbiano appunto come obiettivo quello di far vedere la natura, come di cose di cui parlate prima, tipo animali, quindi fauna, flora. Ma soprattutto l'amore per lo sport. Tutto questo visto dagli occhi non di persone professioniste, quindi biologi, geologi o cose di questo tipo, ma appunto semplicemente da amatori. Mm-hmm. Ecco. E penso che questa volta siamo riusciti, siamo andati nel cuore dell'Islanda e appunto abbiamo parlato anche con le foche, oltre a quel rumore di prima che era geyser, che sarebbe uno dei geyser più grandi del mondo. Ok, su cui avete preso un caffè. Adesso non so se era quello, ma insomma l'avete lì vicino. Sembra un po' un contrasto questa cosa di aprire gli occhi, quindi fermarsi a guardare senza freni, nel senso che voi il giro in Islanda in particolare l'avete fatto con queste biciclette particolari, no? Sono le bici quelle da velodromo? Bravissimo, sono biciclette da velodromo, quindi sono biciclette chiamate a scatto fisso, dove una persona pedalando non può mai smettere di pedalare, perché la trasmissione è diretta, quindi tra catena e ruota posteriore. Sono appunto le biciclette che si usavano all'inizio del Novecento o appunto, come hai detto tu, nei velodromi. Ma perché questa scelta? Guarda, non lo so, a dire la verità non lo so, in un amore nato a Berlino un paio d'anni fa e da quel momento non sono più riuscito a passare a ritornare alle biciclette comuni, e un po' all'onda di questa moda che viene dagli Stati Uniti e dal nord Europa ci siamo lasciati trasportare e abbiamo voluto forse estremizzare un viaggio. Mm-hmm. Che insomma, e quindi rendere questa bicicletta una sorta di musa per i nostri documentari. In Islanda, dai, sono 300.000 abitanti, mi pare, in tutto, quindi non c'è neanche tutto questo traffico e uno magari può permettersi di frenare una volta ogni tanto, comunque di non avere i freni. Però sono biciclette usatissime anche in città, no? Sono tante pony proprio negli Stati Uniti, ad esempio a New York, usano proprio questo mezzo per i trasferimenti all'interno della città. Sono chiamati bike messenger e stanno cominciando ad arrivare anche nelle grandi città italiane, Milano, Roma. Esatto. Diciamo che sono dei mezzi che ti permettono chiaramente di vincolarti meglio tra il traffico. Francesco, in questa vostra sfida però, perché di sfida si tratta, no? Questo sì. Particolare viaggio, c'era un qualcosa in più perché avete coinvolto un amico particolare? Sì, verissimo. Come dicevo, siamo un contenitore e oltre diciamo lo sport è una cosa fantastica. Volevamo allargare anche la possibilità di vivere questa esperienza a persone chiamate diverse, diversamente abili. Diamogli la definizione che vogliamo. Tramite un'associazione nostra amica siamo venuti a contatto con la tematica della cardiopatia e dopo un po' diciamo di selezioni e chiaramente visite mediche eccetera, siamo portati dietro un nostro amico affetto da una patologia cardiaca, quindi un ragazzo denominato sempre tra virgolette cardiopatico. È stato un successo perché ha fatto esattamente quello che abbiamo fatto noi, quindi né più né meno, anzi forse qualcosa in più, e comunque sempre monitorato dalla dottoressa che l'ha operato tanti anni fa. Insomma, comunque, cioè, già dare una bicicletta senza freni a un cardiopatico mi sembra già sembra una follia. Sembra sì, una follia, vero, esatto. Però insomma, faceva parte della vostra impresa. E sul sito tutto il viaggio è raccontato e documentato. Anche noi abbiamo caricato sulle nostre pagine suoni, immagini. Ricordiamo l'indirizzo per conoscervi meglio, che è aprigliocchisenzafreni.tumblr.com. Ma il link l'abbiamo già caricato. Abbiamo il vulcano islandese, riusciamo a farlo ascoltare al volo, vediamo un po'. Siamo proprio in piena nube, tipo tempesta di cenere a pilli. Vi siete vissuti sulla vostra pelle, vero, l'eruzione del famoso vulcano islandese? È verissimo, questa volta non era gli effetti Yukud, il vulcano che ha terrorizzato il traffico aereo l'anno scorso, ma diciamo il fratello grande, era il fratello grande, il vulcano più grande di Islanda, che fino a pochi giorni prima del nostro passaggio era in, diciamo, fase di quiescenza. Poi ha deciso bene di eruttare proprio quando noi eravamo forse le persone più vicine in assoluto, proprio sotto, eravamo sotto il vulcano, sotto il ghiacciaio che nasconde il vulcano, e ci siamo visti questo spettacolo, quindi questa nube tipo, che può ricordare, non so, una bomba atomica che si è alzata in cielo con una colonna di fumo alta qualche chilometro. E dopo noi, nella totale non esperienza, abbiamo giocato un pochino a fare i Piero Angela della situazione, finché non abbiamo visto che la nube cavalcava verso di noi e siamo scappati. E poi senza freni, dopo... ecco lì i freni, non avere i freni ha aiutato probabilmente. Lì sicuramente sì. Okay. Grazie davvero Francesco, complimenti a te e a tutto il tuo team, e ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime imprese. Ciao, buona domenica. Grazie mille, grazie. Ciao. Arrivederci. Le informazioni per chi sta viaggiando poi ancora qua, Mine Vaganti. Mine Vaganti. L'interazione uomo-animale, questo è il cuore degli studi di Roberto Marchesini, studi che hanno poi mille diramazioni, no? I libri, che sono la parte più applicativa, il tuo centro, tantissimi insegnamenti, perché Roberto sei richiesto ovunque, c'è sete di sapere in questo campo. Sì, c'è un grandissimo interesse su questo ambito e devo dire che ci sono delle grandissime opportunità occupazionali, cioè c'è una vera e propria economia che molto spesso non viene riconosciuta e compresa, nel senso che bene o male le persone desiderano avere questo tipo di servizi, che non sono più i vecchi servizi, che ne so, dell'addestratore che ti insegnava al cane a fare il seduto o l'utilità e la difesa. Le persone oggi vogliono avere un cane che sappia stare in mezzo alle persone, che possa accompagnarle al ristorante piuttosto che in un albergo, in un luogo balneare, quindi hanno bisogno di un'educazione. Ecco, di un qual è la differenza tra addestramento ed educazione? Perché credo che sia qui il centro del tutto, anche dal punto di vista culturale. Sì, l'addestramento è insegnare al cane a fare determinate cose, quindi diciamo che è un po' come l'addestramento militare, altre tipologie di addestramento, cioè molto basato su delle prestazioni che al soggetto vengono insegnate. Viceversa, l'educazione è permanente, vale a dire la costruzione del carattere del cane e a volte anche del bambino, voglio dire del cane, del gatto, di chiunque, insomma tutti gli animali che hanno un'età evolutiva, in questo periodo si sviluppano esattamente come una pianta, e questo sviluppo deve essere tutorato, perché necessita di qualcuno che bene o male vada un po' a colmare le lacune, vada a disciplinare certe tendenze, vada a insegnare senza creare delle carenze di esperienza, ma nello stesso tempo senza neanche creare dei traumi. Quindi abbiamo proprio una vera e propria pedagogia, un aiuto allo sviluppo del soggetto, e quindi a seconda dei giochi che fai, il modo di interagire, come gli dai da mangiare, come stai con lui, a cosa dai attenzione. Quindi diciamo che l'educatore è soprattutto un consulente di relazione, perché poi alla fine il vero educatore è la persona, il compagno, insomma il proprietario dell'animale. Quindi si tratta di dargli delle buone coordinate di vita, di vissuto insieme, e sapendo che ogni attività che si fa con un cucciolo hanno un effetto poi sul suo sviluppo del profilo comportamentale. Tu hai educato anche un maiale, vero? Sì, infatti tutti gli animali domestici stanno bene con l'uomo, e questa è la cosa importante, cioè noi molto spesso andiamo a cercare degli animali strani, le iguane, cioè animali che in realtà stanno bene nel loro mondo, sono animali selvatici, vivono male, insomma stare con l'uomo per loro è cattività, cioè da prigionieri, da captivus, no? E in realtà invece gli animali domestici sono animali che desiderano tantissimo di relazionarsi con l'uomo, di stare con l'uomo, e oggi purtroppo gli animali domestici, a parte il cane e il gatto, tutti gli altri sono chiusi negli allevamenti intensivi. Sono chiusi in veri e propri lager, quando invece sono animali intelligenti, animali che avrebbero voglia di relazionarsi, e basta veramente poco per avere una relazione veramente grande, grandiosa. Cioè, se io ho questa maialina Giuditta, che ormai è adulta, ma che è bravissima perché sta a fare il seduto e terra, e resta, ti segue, ti risponde, insomma quando tu la chiami non solo arriva, ma fa quel grunf, come dire sto arrivando, insomma, e questo per farvi capire quanto sia bello e importante questo tipo di relazione che un po' abbiamo perduto, però adesso vedo che c'è un grandissimo interesse, quindi questo è la grande opportunità, perché ci sono, c'è bisogno di servizi di pet therapy, per esempio, ci sono bisogni di servizi nelle scuole, ma lo devono fare persone preparate, persone certo. che non vanno lì a improvvisare, perché sono servizi importanti per la persona. E quindi certo c'è un mercato occupazionale, e per tanti giovani che vogliono fare questo lavoro, che amano relazionarsi con gli animali, certamente sono delle grandissime opportunità. E Roberto, prima hai citato gli sciamani, abbiamo parlato di questo nuovo rapporto che poi invece trae origine da quello che era il rapporto atavico tra uomo e natura. Beh, ti porto tra i nativi d'America. Siamo a Fascia, in provincia di Genova, dove ieri e oggi si sta tenendo la 10ª edizione della Festa della Madre Terra, una 2 giorni interamente dedicata ai nativi d'America, ideata da un'associazione che si chiama Uncapi, che è un'associazione che ha proprio tra come finalità quella di rivalutare, quella di conoscere, quella di divulgare la cultura degli indiani, così insomma sono conosciuti, anche se il nome non è quello corretto. E proprio in questo momento credo ci sia il cuore della festa in azione, perché tanti incontri importanti anche con nativi che sono venuti per questa festa in Italia, tante testimonianze, ma anche il desiderio di assaporare e vivere questa cultura. E con noi c'è il presidente dell'associazione, do il benvenuto a Sergio Bugolotti. Ciao Sergio. Ciao, grazie a voi. Grazie a te. Sentiamo un po', c'è festa? Sì, qui c'è una grande festa, ci sono veramente tantissime persone. E per il luogo dove siamo è un grande successo avere 1 migliaio di persone, siamo a 1500 metri e quindi il posto è un po' impervio, ma è meraviglioso e siamo veramente contenti. In questo momento c'è il clou dei 2 giorni, c'è lo spettacolo di piante tradizionali, è in corso in questo momento. Mm-hmm. E quindi siamo felicissimi. Sergio, credo sia importante subito dire che voi insomma non fate folklore, fate cultura, e tutto ciò trae origine da quando è nata questa associazione. Come mai vi siete ritrovati lì in quella zona tra amici con questa passione, con questa curiosità comune? Ma direi per puro caso, un gruppo di amici che è appassionati di indiani, forse influenzati dai film di John Wayne, abbiamo avuto sempre il desiderio di saperne di più, però ci siamo sempre scontrati con scarse informazioni, al di là dei film non c'era granché negli anni 1996, l'anno di fondazione, e quindi ci siamo detti ma perché non fare qualcosa per colmare questa lacuna, e allora abbiamo detto dai, fondiamo un'associazione. E così è stato, quasi per gioco, però sono passati 15 anni, l'associazione ora conta più di 400 soci in tutta Italia e siamo contenti perché siamo alla 10ª edizione di questa manifestazione meravigliosa. Ma quindi... i nativi li studiate solo sui libri o siete andati anche a conoscerli di persona? No, siamo andati a conoscere di persone, perché studiarli sui libri veramente non si impara sempre proprio tutte le cose corrette. E quindi noi come associazione ogni anno organizziamo un viaggio, chiamiamolo così, sociale, in cui visitiamo 1 o 2 stati degli Stati Uniti o del Canada e ci dedichiamo particolarmente alle riserve dei nativi americani o degli indiani, ecco, possiamo anche chiamarli così. Ovviamente noi non tocchiamo le città, non visitiamo assolutamente posti turistici, ma ci dedichiamo solamente alle riserve. Ok, lì è un incontro, un confronto anche di culture che poi si tramutano in attività quotidiane, in attività durante l'anno, disseminate nell'anno, e poi in questa 2 giorni. Cos'è successo di significativo per farci vivere quello che avete vissuto e quello che state vivendo? Ma in questi 2 giorni abbiamo avuto laboratori, abbiamo avuto incontri con le donne native americane, ne abbiamo 3 qua che ci hanno raccontato quella che era la loro condizione di donna, sia dal punto di vista diciamo dei vecchi tempi, ai tempi della tradizione, sia dal punto di vista odierno. ci sono stati anche racconti molto personali, che però purtroppo sono, è necessario fare. Per esempio abbiamo un'anziana Micmac qui che ci ha raccontato che negli anni 70 è stata, ha avuto una, un malore, è stata ricoverata all'ospedale e a sua insaputa gli sono state chiuse le tube, perché a quell'epoca c'era una norma negli Stati Uniti che le donne native dovevano essere sterilizzate. Mm-hmm. Quindi purtroppo è necessario anche essere consapevoli del fatto che a questi popoli noi abbiamo fatto molto male. Loro in questo momento non ce ne vogliono, ma non vogliono neanche che si dimentichi, certo, o che queste cose vengano misconosciute. E quello che fate voi appunto è divulgazione. Esatto. www.uncapi.it è il sito ufficiale per conoscervi meglio. Sergio, grazie davvero e buona festa. Sono le ultime ore, ma sicuramente avete ancora tempo per divertirvi. Ciao. Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao. Mine vaganti. Ancora buona domenica da Federico Taddia, queste Mine Vaganti. Le nostre pagine in Facebook sono animatissime, gli amici di Senza Freni, Apri gli occhi Senza Freni, hanno pubblicato un sacco delle loro foto di questo bel viaggio in Islanda. I friarielli si sono fatti vivi facendo vedere le cose che stanno combinando a Napoli. Insomma, lì potete trovare tutti i link, tra i quali anche quelli legati alle attività di Roberto Marchesini, che è qua con me e salutiamo. Roberto, però prima di ringraziarti, insomma, la domanda c'è, nel senso, questa nuova relazione nei confronti degli animali, no? questo modello che tu hai detto, sì, nuovo, no? C'è un'attenzione diversa e sono tantissime le attività che tu fai, però poi c'è il rischio che l'animale vada a sostituire l'uomo, cioè io vado a cercare nell'animale quello che non trovo nella persona, magari ho difficoltà di relazioni, magari che non so, perdo il compagno, magari non voglio avere bambini, e tutte queste attenzioni, questo desiderio anche di espressione, di affettività, la vado a cercare, a direzionare verso l'animale. È un'opportunità, è un rischio, è una realtà? Ma questo spesso viene detto, questa cosa, in realtà sono proprio le famiglie con bambini quelle con più facilità hanno animali, quindi non è che il rapporto con l'animale non è mai stato un rapporto sostitutivo o compensativo, è sempre stato qualcos'altro, esattamente come è importante per un bambino avere i genitori e anche i nonni, sono due cose, due relazioni completamente differenti, perché il nonno ti racconta quelle cose che il genitore non ti racconterà mai, e così il rapporto con un cane, soprattutto per una persona anziana, per un bambino, cioè rappresenta un mondo, un universo che il rapporto interumano è completamente diverso e non gli dirà mai. Questo voglio dire, cioè la cosa importante è capire proprio la diversità di questo tipo di rapporto. Sì, ogni tanto può essere compensativo, ma la stragrande maggioranza delle volte non è affatto compensativo, e è un rapporto che, insomma, noi ci portiamo dietro dalla notte dei tempi. In fondo l'uomo del paleolitico, quando 100.000 o 50.000 anni fa ha domesticato il cane, certo non era single, non aveva bisogno di compensare, no? Eppure ha questo interesse, ha avuto questo interesse, ha preso un cucciolo, l'ha portato a casa, l'ha domesticato, l'ha tirato su, insomma da questo è iniziata un'avventura incredibile, che è l'avventura appunto del rapporto con gli eterospecifici. E quindi direi che la cosa importante è proprio evitare di considerarlo compensativo ed evitare di andare a stigmatizzare il rapporto, dire questo rapporto porta via spazio, perché poi una persona che si relaziona con un cane, con un gatto, aumenta la sua empatia, anche un bambino aumenta la sua capacità, perché si preoccupa del diverso, si preoccupa di accudirlo, si preoccupa di bisogni diversi, quindi è una grande palestra per poi amare e accettare il prossimo umano. Quindi direi che è esattamente il contrario, i cani ci insegnano l'amore verso il nostro prossimo, non ci portano via affetto. Grazie davvero Roberto, ricordiamo siua.it, il sito ufficiale. Adesso devi andare anche perché il maiale è la che ti aspetta, nel senso che poi va curato, sì, non certo. È che dopo se va bene educarlo, però mica mi si autocura. Grazie davvero Roberto per essere grazie stato qua con noi, ci ritroveremo voi, sicuramente in una delle prossime puntate di Mine Vaganti. Ciao, a presto. Noi ci buttiamo come ogni domenica invece nella cronaca locale, e oggi lo facciamo con Leonardo Manera. Ascoltate un po' cosa abbiamo trovato navigando in internet. Mi sento solo come un toro nell'arena, la mia ragazza oggi è andata in piscina, voglio uscire col mio migliore amico, ma non lo trovo, oggi è andato in piscina, piscina grande, piscina de gioielli, piscina grande, piscina piccina, sì, se, se, oh, son sospettoso, anch'io vado in piscina, li trovo insieme, stan facendo lui, ah, lei, lei dice amore, sto godendo da impazzire, a me diceva mi diverto abbastanza così. Leonardo Manera da Zelig. Ciao Leonardo. Mi vergogno come un cane di questa. Beh, guarda, abbiamo parlato di animali fino adesso, quindi vergognarsi come un cane va bene. Era una mia canzone di qualche anno fa che cantavo negli spettacoli di allora, in quel caso accompagnato credo dalla chitarra da Flavio Regio. Sì, che non credo che insomma abbia piacere che venga detto. Infatti io l'ho detto apposta. Ciao Leonardo, come stai? Ma insomma sono reduce da una distorsione al ginocchio perché sto girando un film horror infatti, comedy. Ci avevi detto, eravamo curiosi di sapere se avevi scoperto se era più comedy o più horror. È più comedy, ma durante un inseguimento in cui io ero inseguito da degli zombie, sì? Ho avuto questa distorsione al ginocchio e mi sono fatto male veramente. In più ho sperimentato le famose bottiglie di zucchero che vengono rotte sulla testa nei famosi film anche di Bud Spencer, ma ho scoperto che fanno male perché me ne hanno rotte sulla testa quattro e quindi ho avuto questa distorsione al ginocchio, poi una specie di contusione alla testa per le bottiglie di zucchero. Ho avuto dei problemi anche respiratori in una scena in cui dovevo ballare con la bocca tappata dal silicone, quindi ho scoperto che fare il film è una cosa pericolosissima. E tutto questo è il lato comedy, figuratevi quello horror, perché vabbè, e Leonardo, visto quindi che sei lì, noi abbiamo colto l'occasione al volo del tuo infortunio per disturbarti, visto che oggi non avevi scene per commentare insieme, come sempre che ci piace fare, la cronaca locale. Partiamo con due articoli della Prealpina. Il primo proprio in prima pagina, una mucca per le nozze del principe. Sai che ci sono state queste nozze, sì, di Alberto II di Monaco. Hanno regalato una mucca alcuni amici di una Ossolani, quindi si chiama Ossola, e proprio è stato il loro dono di nozze, non è male. Ma questo è il problema di chi ha già tutto, insomma, tu cosa puoi regalare al principe Alberto di Monaco? Gli regali salviette, completo le lenzuola, le posate, no, loro hanno già tutto, quindi giustamente hanno cercato qualche cosa, insomma, che non avesse ancora e che potesse essere una novità nella loro casa. Non so se la useranno questa mucca, però potrebbe dargli il latte fresco tutte le mattine. Io quando mi sposerò lo chiedo già fin d'ora a chi ascolta Radio 24, chiedo un cinghiale, sarebbe un regalo carino da farmi. Nella lista di nozze un bel cinghialino, perfetto, sì. Andiamo a Livorno invece, la Repubblica di Firenze, il titolo: dimenticata sul lettino relax dopo la chiusura del centro estetico. In un salone una cliente è stata rinchiusa per un'ora all'interno del negozio, lei si era addormentata, ma anche le inservienti, mi pare. Beh, qui la battuta è fin troppo facile, insomma, quando le hanno aperto lei era nera. Benissimo. Ok. Chiedo scusa per questa battuta. Ma ci però piace. Guarda, l'ultima, ma senza commento, poi andiamo all'informazione per chi sta viaggiando. Siamo ancora a Livorno, a Rosignano, questa era sul Corriere Fiorentino. Rissa fra gelatai sulla spiaggia su chi deve vendere i cornetti. Ad avere la peggio è stato il gelataio della Samontana, che è stato menato da quello dell'Algida. Questo contravviene alla pubblicità dei gelati che dice i buoni non finiscono mai. Bravo. Bravo. Ma invece ha dimostrato che i gelatai non sono poi così buoni. Mine vaganti. Mine vaganti, la cronaca locale raccontata da me, commentata da Leonardo Manera. Leonardo, ci sei? Sempre qui presente. Ah, questo Corriere del Veneto, siamo alla Sise in provincia di Verona. Il titolo era: porno in piazza per tutta la notte. Filmini porno proiettati di notte nella piazza centrale di Lascise sul lago di Garda. Alcuni hacker sono entrati nel sistema informatico e c'era questo il totem informativo del comune e loro sono riusciti a immettere queste immagini pornografiche e c'è stata una ressa, soprattutto maschile, nel display informativo del comune. Sì, infatti ho letto anch'io questa notizia e poi c'era anche il proseguimento della notizia. Si fermavano di più gli uomini. Quello che gli uomini non sapevano è che le loro donne poi sono tornate a casa e hanno chiamato gli amanti. Quindi mentre gli uomini guardavano i video in piazza, le donne lo facevano davvero a casa. Questo è il dietro le quinte della cronaca locale. Uno pensa, Corriere del Mezzogiorno, invece siamo a Manfredonia, qua il titolo, guarda, non ha neanche bisogno di commenti. Giocatore sfortunato perde la testa, va sotto di 2.000 euro e ruba la slot. Così, voleva rientrare dei soldi spesi. E c'è da chiedersi come abbiano potuto notarlo. Porta a casa una slot, cioè proprio veramente aver perso la testa, perché altrimenti no, lo vedono immediatamente. Insomma, però è una forma di risarcimento che secondo me dovrebbe essere garantita anche nei casinò. Per esempio, uno perde, si porta a casa la roulette, per dire. Tra l'altro l'aveva dichiarato e pare che sia entrato dicendo: se non vinco 800 euro queste macchinette me le porto via. Quindi è stato fedele alla sua affermazione. E magari potesse bastare dichiarare le cose per poi poterle fare, no? Infatti. L'Arena di Verona, il titolo: fuori programma, la Lega, Tosi si allena con le tigri. E c'è un'intera pagina sul sindaco Tosi che ha passato una giornata al circo. E lo si vede mentre addestra le tigri, mentre tiene alcuni cuccioli in braccio, ma anche mentre si butta a volo d'angelo sul trapezio. E questa è la dimostrazione che la situazione politica sta cambiando, forse alcuni anche dell'area governativa, insomma, capiscono che forse potrebbero più non essere rieletti e quindi stanno cercando un lavoro alternativo. Però devo dire che tra avere a che fare con le tigri come Tosi oppure con Calderoli, forse è più facile avere a che fare con le tigri. Hai ragione, quindi ha scelto il male minore, diciamo. Sì. Ok. Oh, bella questa. Due notizie simili, La prima è il centro, siamo a Giulianova, ladro gentile, la deruba e le restituisce la borsa. Ha fatto uno scippo e poco dopo è tornato lo scippatore dalla signora, la 32enne, a cui aveva rubato la borsa e gliel'ha riconsegnata. Senza 300 euro, però gliel'ha riconsegnata. È stata... Secondo me era lo stesso che si è portato a casa la slot. Bravo, perché lui fa così, è più forte. Ha rubato la borsa. Messo dentro i saldi che c'erano. Esatto. Mentre sei ancora lì? Sì, mentre la Repubblica di Genova, anche questa, rapina la banca, poi telefona e dice: scusate, così non si fa. Sembra appunto una scena tratta da un film, ma l'uomo ha assaltato la filiale di Banca Intesa di Brignole e pochi minuti dopo, col suo cellulare, ha chiamato la cassiera per assicurarsi che non si fosse spaventata troppo. Sì, e poi si è scoperto che i soldi che aveva rubato in banca gli servivano per pagare un buon psicologo. Esatto. Un atteggiamento assolutamente. Infatti, l'hanno arrestato subito perché l'hanno beccato al volo dopo la telefonata. Ma hai visto quante notizie ci sono di persone che in qualche modo si autodenunciano, fanno le cose e poi hanno come un impulso, hanno un pentimento, anche una bella... In questo senso. Non so, un senso di colpa che però arriva sempre un attimo dopo, no? Arrivasse un attimo prima, sai quanti articoli in meno. Ma noi invece abbiamo bisogno di questi articoli, quindi li ringraziamo. Chiudiamo con la prima pagina di oggi del Giornale di Vicenza. Spedisce a mezzo paese foto e video con l'amante. È una vendetta? È una vendetta, pensa, foto osè dell'amante in paese. Siamo a Porto Mantovano, in provincia di Mantova, un paese di 8.000 abitanti. Beh, quest'uomo, visto che lei, l'amante, aveva rotto la relazione, ha mandato foto e video a lei, al marito, agli amici del marito, ai vicini di casa del marito. Non solo, ha passato la notte in paese a fare volantinaggio, a mettere foto su tutte le macchine che trovava nelle strade. È stato ovviamente denunciato, però ti lascio immaginare le voci di paese cosa hanno raccontato. pensa che all'inizio lei si era messa con lui perché pensava che fosse un tipo riservato, diciamo, poi invece ma comunque questo è il modo migliore per farsi lasciare. Quando tu hai una relazione, non sai come concluderla, fai una serie di foto, diffondi la notizia e poi magari mandi anche la fattura al marito che ti paga le fotografie, il servizio di spionaggio che hai fatto. È un consiglio che do a tutti quelli che non sanno come troncare una relazione, è un modo ottimo, insomma. Comunque, guarda, non oso immaginare a Porto Mantovano oggi di cosa abbiano parlato. Credo che sia stato il tema, sai, la provincia è questa, no? Poi ci si accontenta di poco, bastano due foto osè e hai come passare la domenica. Ma infatti anche la cosa bella della provincia è che trova soluzioni magari alternative che magari in una città più grande non si immaginerebbero neanche. Invece la bella provincia è proprio la fantasia anche. Leonardo, grazie davvero come sempre per essere stato in nostra compagnia. Ma quindi sei a riposo adesso per qualche giorno o stanno riscrivendo la sceneggiatura per venirti incontro? No, io provo a girare lo stesso, insomma. Certo faccio fatica a stare in piedi, ma è la cosa che devo fare, insomma, quindi andrò avanti. Perfetto, grazie davvero. Di come di oro. Grazie a voi, ciao Federico. Noi ti seguiremo. Ciao Leonardo, ciao. Leonardo Manera, Mine Vaganti, per commentare la cronaca locale. Noi rimaniamo ancora in tema di cronaca locale, ma per raccontarvi una storia. Due quotidiani locali, più o meno lo stesso titolo. Uno è Varese News, siamo a Cadrezzate. Il titolo: due giorni nel lago, è iniziata la sfida del ragazzo pesce. Per stabilire il nuovo biorecord, Riccardo Palumbo dovrà resistere in acqua per 48 ore, si è immerso alle 11 di ieri l'altro e dovrà riuscire a resistere fino al mattino di domenica, cioè di oggi, mentre sempre la Prealpina titolava l'uomo pesce in acqua da ieri. Un'impresa strana, un'impresa curiosa, un'impresa bizzarra, ma che volevamo conoscere, e l'uomo pesce Riccardo Palumbo è qua con noi. Ciao Riccardo. Ciao, ciao a tutti. Ciao, come stai? Bene. Allora, quando ho letto, non te lo nascondo, insomma, quando ho letto il titolo, la prima cosa che ho detto, vabbè, a cosa serve? Due, vabbè, cosa sarà stare 48 ore a mollo? Poi però sono andato a leggere, è un record mondiale, quindi vuol dire che è assolutamente un'impresa, ma in particolare è un biorecord. Allora, intanto ce l'hai fatta? Sei all'asciutto in questo momento? Okay. Adesso sono all'asciutto, ce l'ho fatta, è andata molto bene, meglio del previsto, e sì, è un biorecord perché in effetti 48 ore in un lago pulitissimo come quello di Monate, specialmente appunto nel comune di Cadrezzate, con un'alimentazione totalmente biologica e con dei messaggi, oltre alla prestazione sportiva, ma anche rivolti all'ambiente e alla tutela dei mammiferi in libertà, era proprio da chiamare biorecord. Quindi è la prima volta che si fa un biorecord che parli sia di cultura, di sport, di scienza, perché avevo con me anche un'equipe di ricercatori del CNR che mi ha testato e monitorato per tutte le 48 ore della mia permanenza in acqua. Certo. Tu, insomma, non solo sei un atleta, ma sei appunto un divulgatore, no? della cultura dell'acqua, sei anche fondatore di questa associazione Pensiero Acquatico che ti ha supportato e ti ha seguito in questa impresa. Ma di fatto hai nuotato per 48 ore, cioè, o eri fermo, legato? Com'era? Cioè, ci puoi far vedere? La situazione era questa: io stavo in galleggiamento, indossavo una muta di uno spessore di 7 mm, una muta umida, cioè io sempre quindi avevo la pelle bagnata dall'acqua, quindi la muta mi serviva solamente per proteggermi dal freddo di questo lago, che aveva una temperatura abbastanza buona perché era intorno ai 24 gradi in questi due giorni. E io mi muovevo galleggiando, nuotando, rimanendo in galleggiamento prono, supino, verticale, diciamo che io cercavo di simulare il più possibile una condizione acquatica in cui un uomo si può trovare, ecco. Quindi non ho nuotato consecutivamente, ma ho cercato di trovare sempre un ritmo costante tra movimento e rilassamento che mi consentiva di risparmiare energie, ma allo stesso tempo rilassarmi, meditare e quindi anche interiorizzare tutte quelle emozioni, quelle esperienze che vi assicuro arrivano in continuazione durante il corso della permanenza in acqua. Certo, ma insomma capisco la difficoltà di testa, e vabbè, queste si possono anche superare, insomma, tu ti sei concentrato, hai delle abilità, certo, tue. Però la pelle come reagisce a stare in acqua per 48 ore? Allora, guarda, adesso io sono uscito dall'acqua alle ore 11 di questa mattina e devo dire che alle ore 13 le mani e i piedi, che sono le due parti del corpo che soffrono di più, erano praticamente in una condizione normale. C'è un'evidente sofferenza da parte della pelle, però con alcuni metodi di galleggiamento io riuscivo a stare con le mani e i piedi fuori dall'acqua almeno una volta ogni ora, ora e mezza, in modo tale che potessero asciugarsi parzialmente e quindi ristabilire quell'idratazione normale che la nostra pelle ha bisogno. Ti sei addormentato anche? Guarda, purtroppo abbiamo avuto due notti difficilissime, nel senso che la prima notte, ovvero quella di venerdì, era molto ventosa e quindi il lago si è mosso e io continuavo a ballare in continuazione, quindi il programma di rilassamento, che tra l'altro era seguito da due amici carissimi che sono due terapisti sonori che mi applicano appunto suoni a una frequenza accordata a 432 Hz che servono appunto per rilassare corpo e mente. Ecco, diciamo che questa operazione è andata bene fino a un certo punto, poi appunto il vento è arrivato, la temperatura dell'aria è scesa molto e quindi io ho dormito un totale di un'ora e mezza in 48 ore. Insomma, anche questo faceva parte dell'impresa. Allora, il sito pensieroacquatico.it, l'ultima cosa, Riccardo, so che nell'allenamento hai anche usato un suono strano di una conchiglia marina, che cos'è? Sì, è stato, diciamo, questo suono è stato utilizzato per l'ingresso e la chiusura, è proprio una conchiglia marina che viene a un buco e viene proprio suonata dal soffio di Francesco Aiello, che è il terapista che mi ha seguito in questo anno di preparazione. E poi nello specifico abbiamo utilizzato il didgeridoo, che è uno strumento aborigeno, certo, australiano, che adesso diciamo che oramai è abbastanza diffuso e comune, e poi alcune campane tibetane, alcuni carillon che mi hanno aiutato proprio attraverso il suono, che poi nell'acqua si propaga molto più velocemente rispetto alla normale situazione terrestre, mi aiutava proprio con le sue vibrazioni a tenere sempre questo ritmo di calma, di tranquillità. Fantastico. Finita l'impresa, ti sei fatto una doccia, ti sei fatto un bagno? No. Cioè, guarda, sai, io sto arrivando a casa in questo momento, dopo, sai, tutti i festeggiamenti, le varie premiazioni, perché comunque l'evento ha creato anche una festa dell'acqua, dove altre associazioni hanno partecipato a questo bio record, e quindi diciamo che si è concluso adesso e andrò a casa e non farò un bagno caldo, questo sicuro, ma farò una doccia magari un po' fresca per cercare di riprendermi e fare una bella dormita questa notte. Complimenti, grazie davvero a Riccardo Palumbo per la sua bio impresa. Ciao Riccardo, buona serata. Un saluto a tutti, ciao. Grazie, ciao. Noi ci fermiamo e con Mine Vaganti torniamo subito dopo la pubblicità. Mine Vaganti. Strani l'uno all'altro, non facciamo niente per recuperare tutti quei momenti, quegli istanti che ci hanno fatto innamorare. Noi restiamo. È una milva dannata quella che abbiamo trovato per parlare del prossimo argomento. Ci piace dare voce agli eventi più strani che troviamo in Facebook, eventi che ci potete segnalare voi nelle nostre pagine di Mine Vaganti di Radio 24, oppure se vi è più comodo potete anche inviarci una mail a minevaganti@radio24.it. L'evento di questa settimana si chiama cene cross dinner. Era bello l'invito. Quanti amici hai su Facebook? Quanti contatti su LinkedIn? Quanti ti seguono su Twitter? Quanti di questi non hai mai visto in faccia? Ecco, è arrivato il momento di guardarci in faccia e magari attorno a una tavola cenando insieme. L'idea l'ha avuta Andrea Vigna insieme a Vito Jonathan Massandro, e Vito Jonathan è qua con noi. Ciao! Ciao Federico, buonasera. State già cucinando? Quando sarà? Aspetta, il mercoledì se non erro? Mercoledì prossimo sarà la prima. Ok, allora Vito, l'idea da dove nasce e come mai l'esigenza da dove nasce questa esigenza di guardarsi in faccia? Ma è stata una scusa per realizzare questa prima cena, questa idea che ha avuto Andrea di dire: ma perché non cominciamo a coinvolgere direttamente le persone? Perché come associazione, questa idea nasce da un'associazione legata al food design che si chiama FUDA. Sì. Abbiamo molti progetti, alcuni anche molto grandi e ambiziosi, però alla fine si finisce per parlare tra addetti ai lavori e poi tutti gli altri che fine fanno. Allora diciamo, abbiamo detto: dai, cominciamo a scendere un po' in strada e a invitare la gente a fare in modo che si conosca, serve a noi per fare network, a loro per conoscersi e fare network a loro volta. E quindi è nata questa idea di fare queste cross dinner, questa specie di format, questa specie di incontri. E il tuo collega è il cuoco, immagino? Cioè, se, esatto, ok. Sì. E allora intanto diamo il sito, che è fooda.org, per conoscere le attività dell'associazione. E chi può partecipare? Nel senso che è un po' il gioco dei sei gradi di separazione. Io potevo invitare altri amici, o è assolutamente una cena al buio dove io veramente non so con chi avrò al mio fianco? Come diceva, il tema di questa prima cena è da virtuale a reale, quindi io posso invitare i miei amici, l'importante è che siano soltanto ancora amici virtuali. E quindi magari avviene soprattutto su LinkedIn, in cui si hanno molti contatti professionali per interessi comuni, per settori condivisi, però alla fine non li ho mai visti, ecco. E quindi l'idea è: cominciamo a vedere di far quagliare qualcosa queste persone, questi social network, e di metterli insieme. Quindi è più che altro una sorta di complemento ai social network questa prima cena, un modo per sviluppare questa conversazione che comincia online ma che poi deve per forza di cose diventare reale. Perfetto, ci sono già iscritti? Ci sono già tutti gli iscritti per mercoledì. Mm-hmm. E quindi siamo pieni, infatti abbiamo appena lanciato la prossima cena, visto che è stato un successone. Ah, vai, mercoledì prossimo ce ne andiamo un'altra. Ah, subito così, perfetto, quindi la cosa ha preso ancora prima di accadere. E, vabbè, noi rinnoviamo a utilizzare la nostra bacheca delle pagine di Mine Vaganti di Radio 24 per diffondere questa cosa, e poi insomma fateci sapere come va, così insomma se veramente replicabile come esperienza, ok? Va bene, saremo contenti di farlo. Perfetto, vuoi dare comunque ancora il sito ufficiale, che è? Il sito è crossdinner.com per le cene e fooda.org per tutte le altre iniziative. Perfetto, benissimo, grazie davvero, ciao Vito e buona serata. Ciao Federico, anche a te. Ciao, ciao, ciao, ciao. In questo momento, come sempre, attorno alle 18.35 andiamo a seguire Alex Bellini, che però oggi abbiamo qualche difficoltà, però mettiamola la musica, introduciamo l'argomento, eccolo. Che state ascoltando è quella di un video che abbiamo caricato sulle nostre pagine Facebook e trovate anche sul sito alexbellini.it, un video dei tanti che stanno raccontando giorno per giorno questa impresa. Alex Bellini sta correndo la Foot Race Los Angeles New York, quasi 5.000 km in 70 tappe, in 70 tappe in 70 giorni, quindi non c'è un giorno per riposarsi, da circa 70 km l'uno. Oggi siamo proprio alla 14ª tappa, se non erro, e stanno superando il 1000° chilometro. Sono in una riserva indiana, ci dicono che non c'è campo, lo sapevamo, quindi non possiamo avere la voce in diretta di Alex. Tra l'altro in questi giorni ci sono stati problemi di comunicazione, perché sono veramente nelle zone più deserte degli Stati Uniti, però sta andando bene, regge, insomma i muscoli rispondono, la testa c'è, temperature più miti, stanno correndo a quasi 2000 metri di altitudine, quindi per Alex è un po' ritornare a correre nei suoi luoghi che conosce, dell'Aprica, la montagna, quindi insomma è un clima che lo aiuta, un clima che lo sostiene. Per capire quello che sta succedendo là abbiamo invitato quindi il team manager di Alex Bellini, che ha qualche contatto in più, Max Damioli. Ciao Max. Ciao Federico e ciao a tutti gli ascoltatori. So che anche voi insomma in questi giorni avete qualche difficoltà a parlare con Alex. Sì, purtroppo sono all'interno di una riserva Navajo e per fortuna lì non ci sta, per fortuna dei Navajo dico, non certo. Ci sono onde, no? dei cellulari, però purtroppo per noi vuol dire sentirci solo quando si avvicinano a un McDonald's all'arrivo, e allora proprio scappano dal camper, si avvicinano al McDonald's per rubare la linea e mandare delle foto, per mandare i dati, per mandare la tappa, scaricare i dati del Garmin. Insomma, però è molto saltuario purtroppo, andrà meglio alla fine dei deserti, dopo la metà. Ecco Max, qui la domanda che ci stiamo facendo, ma quando passano vicino a un McDonald's entrano anche, cioè no. no, è vietatissimo proprio. Ti dirò che è usuale per alcuni runners di bere bevande gassate, zuccherate con caffeina dentro, senza fare nomi. Sì. Perché hanno appunto molti zuccheri, la caffeina è una botta di energia e potrebbe anche essere una strategia positiva per una maratona o per, non so, una maratona del sabbio dove sono 260 km in 6 giorni, ma sull'onda di 70 giorni non si può immaginare di ingerire quella roba. Sì. Perché il pH del sangue produce un disastro e allora lo lasciamo fare agli altri. Cioè tu dici che dopo che hai corso 70 km il cetriolo del cheeseburger comunque non l'hai ancora digerito, no, cioè no, è ancora meglio lì. Meglio di no. Pensa che c'è un ragazzo, non dico neanche la nazionalità, perché che alla fine della gara si butta sulla sedia e beve 2 birre una dietro l'altra. Ecco. E io dentro di me mi chiedo chissà come fa il giorno dopo a ributtarsi a 50 gradi, adesso un po' meno, ma insomma quando era nei deserti lo faceva. Insomma, sono veramente persone diverse. Ecco, Max, scusa, tu sei il team manager, tu hai seguito Alex nella preparazione anche, mi sembra, nelle prime tappe, no? Sono stato giù la prima settimana per capire com'era il ritmo della gara, per poterlo in qualche modo poi aiutare conoscendo i ritmi. Ok, tu quindi conosci Alex, ma hai guardato negli occhi anche gli altri, erano 14, adesso mi sembra che i partecipanti sono partiti in 16, adesso credo siano rimasti in realtà si sono iscritti, come sai sono iscritti 20, sì. Alla partenza si sono presentati in 14 più 2 fuori gara, perché uno è un 72enne olandese col monopattino e un'altra è una, mi pare, 58enne olandese sempre in bicicletta. Fantastico. Quindi sono 14 e già alla sesta tappa erano in 8. Quindi una sorta di selezione iniziale. È una gara di sopravvivenza più che di corsa, no? Ecco, quindi tu li hai guardati tutti negli occhi, comunque, al di là di Alex, che lo conosce molto bene, e la domanda: perché lo fanno? Tu hai trovato una risposta comune? Ma io penso che sia la stessa risposta che dà Alex sempre a tutte le conferenze stampa, naturalmente è la prima domanda che gli fanno, gliel'hai fatta anche tu, perché è il loro modo di esprimere la loro libertà, la loro vita, loro non potrebbero fare altro che quello che stanno facendo. Guarda, io ho visto, in particolare ci sono 4 giapponesi, adesso sono rimasti in 2, sì. Questi 2 che continuano a correre hanno i piedi che sanguinano, nei filmati si vedono chiaramente, e hanno i piedi piagati che sanguinano, eppure, e solo i giapponesi sono in grado di farlo, credo, ma corrono lo stesso oggi 80 km pur lasciando le scarpe rosse di sangue. Perché uno dovrebbe fare una cosa così? Beh, un po' perché è giapponese, lo shintoismo aiuta a gestire la sofferenza come un valore, ma anche perché è una sorta di sfida ai propri limiti e alle proprie credenze limitanti, è una sorta di grido forte alla vita e alla propria libertà di essere se stessi, che è poi quello che dice anche Alex quando va nelle aziende a fare lo speaker motivazionale, parla proprio di questo, del fatto che la vita vale la pena di essere vissuta fino in fondo. E lui paga un prezzo molto alto, per esempio, non so se lo sai, ma sta per avere una bambina e probabilmente, a meno di un ritardo, non potrà essere al parto di sua moglie, alla nascita di sua figlia. Lo sapeva fin dall'inizio, però ha scelto lo stesso di andare, e quando ne abbiamo parlato lui ha proprio esplicitamente detto una cosa molto importante, secondo me, che una figlia, un figlio, preferisce sapere che il padre era a seguire i propri sogni e non che era lì in sala parto magari maledicendo il momento in cui non è andato dove doveva essere, no? E io penso che sia un insegnamento di valori molto importanti. Certo. Max, sicuramente tenteremo con Alex di collegarci in diretta domenica prossima. Intanto abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori e non solo, anche agli amici di Alex, di mandare messaggi, e se puoi mandarglielo tu questo messaggio, o perlomeno valuta tu se è un messaggio che si può riferire. E dicono: non voglio chiedere nulla ad Alex, voglio solo che gli diciate che anche questa volta, come per la traversata del Pacifico, io sono con lui e sono sempre pronta con il dolce al cioccolato. Credo... E adesso non so se si può parlare di dolce al cioccolato durante un ultra. Si può, ok. Si può, però dal 28 di agosto il dolce al cioccolato. Ok, perfetto. Possono questi del dolce al cioccolato e tutti gli altri che vogliono seguire Alex possono seguirlo sul sito www.alexbellini.it e su tutti i siti e anche sulla pagina di Facebook, dove continuiamo ad aggiornare quotidianamente. Perfetto, ciao Max, grazie davvero a tutto il team. Ciao. Questo è Mine Vaganti, ci fermiamo e poi subito dopo di nuovo tentiamo di attraversare l'oceano. Mine Vaganti. Sempre chiudiamo le puntate di Mine Vaganti dando voce a chi fa musica, magari a chi fa musica in maniera nuova, in maniera divergente. Spiegarvi che strumento sia non lo so bene, si chiama basso forte, è stato ideato da un compositore, musicista, un sound designer nato a Rovigo e che ora vive a pochi passi da Hollywood, perché lui con la musica ci campa alla grande, fa parte dell'eccellenza, non è un cervello in fuga, non è scappato da nessuna parte, è andato là dove le sue competenze, il suo estro, la sua genialità è apprezzata, è voluta. Si chiama Diego Stocco, se andate sul suo sito, nell'home page, c'è lui che dà fuoco a un pianoforte e anche con qualcosa che assomiglia a un pianoforte, e anche quella è musica. E Diego Stocco è qua con noi, ciao Diego! Ciao Federico, grazie dell'invito. Grazie a te. Allora, si può partire da Rovigo e finire a fare le musiche di Sherlock Holmes? Questo può essere un po' la partenza e l'arrivo del tuo percorso professionale? Beh, è stata una coincidenza fortunata, diciamo. Ho costruito uno strumento che è stato notato da Hans Zimmer e mi ha telefonato, mi ha chiesto perché non vieni su e ti facciamo suonare nella colonna sonora. Ho detto, beh dai, mi sembra una buona idea. E adesso tu vivi lì, vivi perché appunto sì. Fai musica per il film e non solo, nel senso che hai un mondo apertissimo nel mondo dei videogiochi, che è un mondo sconosciuto, ma c'è, perché insomma le musiche lì sono parte fondamentale del gioco. Certo, anche i videogiochi da un po' di anni a questa parte stanno assumendo una dimensione importante, specialmente per la musica, e anche in quest'ambito, visto che costruisco una serie di strumenti immaginari, i vari compositori o le compagnie direttamente mi chiamano perché sanno che posso creare qualcosa di diverso, questa è la base di quello che faccio. Ecco Diego, ma quando hai capito che gli strumenti musicali si possono inventare? Perché è un'intuizione che dice, vabbè, la scoperta è l'acqua calda, e invece no, perché no? Si ha sempre l'idea che tutto sia già stato inventato, ma anche in campo musicale gli strumenti sono quelli, poi ok, li puoi sapere suonare meglio o peggio. Tu invece hai fatto un passo successivo, cioè questi strumenti hai iniziato a contaminarli tra di loro. Beh, io dico, ho iniziato quando ero veramente un bambino facendo dei danni, in realtà, e i miei genitori se li ricordano bene perché ho disastrato diversi strumenti, un pianoforte, chitarre e varie altre cose. Però partendo da un punto di vista rispetto al passato, un migliaio di anni fa, 2000 anni fa, io credo ci fossero molte più persone che costruivano strumenti, e poi col tempo alcuni strumenti sono diventati tradizionali e sono in un certo senso morti perché hanno finito la loro evoluzione. Io credo di aver in un certo senso ripreso questa strada, e attraverso una serie di esperimenti che alcune volte sono di successo, altre volte appunto disastro uno strumento. Secondo me è una questione di curiosità, di continuare a inventare, a chiedersi, ma se io prendo questo e lo combino con questo e poi faccio questo, cosa succede? Questa è la base della mia ricerca musicale. Allora, il basso forte lo stiamo ascoltando, ho pubblicato una foto anche di questo strumento, che è un pianoforte più basso, giusto? Sì, esatto. Un po' questo. E l'ho pubblicato nelle nostre pagine di Mine Vaganti. Invece voglio capire quel pianoforte che prende fuoco nella tua home page, che cos'è? Beh, quello è stato un esperimento che ho fatto nel 2005. Sì. E stavo lavorando a questo progetto che e poi è stato è uno strumento virtuale, in pratica, che musicisti e altri compositori possono suonare. Io sono uno dei sound designer principali di questo progetto, per sì, questa azienda americana, e stavo sviluppando tutta una serie di suoni alternativi, e un giorno ho detto, guarda, adesso prendo il pianoforte e gli do fuoco, e l'ho proprio fatto, ho preso il pianoforte e l'ho portato fuori in giardino e ho provato a dargli fuoco come pensavo, perché io ho pensato, guarda, il pianoforte si accenderà come un fiammifero. In realtà ci è voluto anche un po' di tempo per farlo accendere, però poi una volta in fiamme ho registrato varie note, singoli suoni, vari rumori, ed è diventato appunto una versione virtuale di un pianoforte bruciato. Fantastico. Ed è stato utilizzato in album da altri musicisti. Hai campionato i suoni, oggi, insomma, okay. E Diego, se ti faccio e faccio ascoltare i nostri ascoltatori un'altra musica, l'ascoltiamo un attimo e poi ci racconti tu che strumento è questo. Ecco, in questo caso non hai costruito uno strumento nuovo, hai utilizzato qualcosa che già esisteva. Esattamente, in questo caso lo strumento era al centro del giardino di casa mia qui in America, perché si tratta di un albero. Ho suonato l'albero che avevo in giardino, un giorno ero lì seduto fuori in giardino che lo guardavo, ho detto, ma puoi vedere che magari riesco a suonarlo davvero come uno strumento. E ho intonato l'albero, nel senso ho accorciato e allungato i rametti con un tempera matite per far sì che fossero nella nota. No, davvero? Cioè, no, aspetta. Sì, è stata una cosa. Okay. Così. Poi ho customizzato anche, ho fatto delle modifiche a uno stetoscopio per riuscire a catturare delle frequenze molto basse che scorrono all'interno dell'albero. E quindi tutto quello che senti è suonato da un albero, come se fosse uno strumento. Ma quando dici suonare l'albero, cioè come se fosse una percussione? No, non solo. La parte percussiva, diciamo, è la parte più semplice, perché basta semplicemente creare dei ritmi scuotendo le varie parti. In realtà l'ho suonato con un archetto da contrabbasso, per cui tutte le note, le cose che senti sono proprio note estratte suonate dall'albero in tempo reale. C'è un rametto che faceva il basso, un rametto che faceva i suoni più acuti, un altro che tra virgolette faceva la melodia. Un po' complicato fare le tournée magari con questo strumento, però l'effetto è pazzesco. No, ma in realtà ho già iniziato a fare dei progetti anche in studio e dal vivo, perché basta comprare un albero separato. Infatti è un po' bizzarro, perché ho realizzato un progetto insieme a Patrick Leonard, sì, che è il produttore storico di Madonna, quello che ha scritto per lei Live to Tell, Like a Prayer, i più grossi successi, e abbiamo registrato in studio dei brani, e io mi sono andato, al vivaio a comprare due alberi praticamente. Sono arrivato in studio con gli alberi. Poi li hai accordati un attimo e via. Scusate, devo un attimo dargli da bere, perché giustamente sono alberi. Diego, e ultimamente credo anche con Terminator hai fatto qualcosa, sei coinvolto anche lì? Io dico, faccio una serie di cose nell'ambito del cinema, una di queste è anche musica per i trailer cinematografici. Sì, ecco. Creo una serie di brani che poi vengono dati a disposizione di queste case che creano i trailers, e poi vengono appunto utilizzati nei vari trailer, tipo Terminator, Salvation, ultimamente anche Tron, mm-hmm, Legacy, e quindi, insomma, e vari altri film. È il top, è il top del cinema, quindi la tua creatività è più che apprezzata. Però insomma, questa cosa dell'artigiano ci piace. Magari hai mirato qualche altro strumento? Cioè, qual è la prossima cosa che vorresti fare? Cioè, qual è il prossimo strumento? Adesso ho delle cose in costruzione. Mi piace mantenere un po' di riservo, sì, anche per tenere far vedere com'è lo strumento una volta finito. Però in realtà sto pubblicando sulla mia pagina Facebook alcune foto molto enigmatiche, a dire il vero, però per far capire a quelli che mi seguono che c'è qualcosa in pentola che sta bollendo. Noi vorremmo essere qua e tra i primi a farlo ascoltare, sappilo che... Certo. E possiamo tranquillizzare i genitori, comunque niente di pericoloso. No, ma guarda, io con il burning piano, con il piano in fiamme, diciamo, ho raggiunto l'apice. Una volta fatto questo, se sopravvivi al piano in fiamme, puoi far tutto dopo. Grazie davvero a Diego Stocco da Hollywood. Dove vivi precisamente? Burbank è la città, okay, che sta esattamente a 10 minuti da Hollywood, ma Burbank è proprio il posto dove ci sono i studios, cioè la Disney, Warner, NBC, ABC, tutti i grossi studi cinematografici e televisivi sono proprio qui in questa città. Okay, Hollywood, ecco, è un po' il luogo fantastico dove tutto, che si crede nasca il cinema, ma il cinema in realtà nasce qui. E tu ci sei. Grazie davvero, Diego, e complimenti ancora. Ciao, ciao, grazie, ciao. Grazie a te, Enrico. Ciao. Ciao, ciao. E chiudiamo qua la puntata di oggi di Mine Vaganti. Un grazie a tutta la squadra che ha partecipato alla realizzazione, alla preparazione: a Margherita Aina, Alessandro Balia, Paolo Corleone alla parte tecnica, Marco Lombardo in assistenza. E grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Ci trovate su Facebook o sul sito radio24.it per riascoltare la puntata in podcast da domani. Ancora ciao da Federico Taddia.